Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che, come richiesto anche da molti ascoltatori, recupereremo la parte di Focus che ieri non è andata in onda, abbiamo avuto infatti lo speciale sulla sentenza della Consulta sul Lodo Alfano, la parte dedicata proprio a un tema che vedo che sta molto a cuore e mi fa piacere, la scarsa, se non inesistente, mobilità sociale in questo paese, ossia le opportunità o le non opportunità che stiamo regalando ai nostri giovani. E i dati, come ricordavo ieri, sono sconfortanti, hanno sorpreso anche me, che penso di non essere né così vecchio né così sprovveduto, su quanto si sia bloccato il paese negli ultimi 20 anni. E di questo parleremo in apertura. Ancora, per quello che riguarda altri temi, Fiat più 4,4% e già si capisce che la borsa è, è in una giornata positiva, più 1% il Mibtel, più 1,1% Parigi, più 1% Francoforte, più 0,6% Dow Jones in questo momento, quindi in America, e più 0,6% anche Londra. Borsa in recupero con un euro a quota 1,477, quindi vicinissima a 1,48. Dicevo, Fiat molto bene, vicino a 10 euro per azione, ma molto bene anche il Banco Popolare, più 6,7, Buzzi Unicem più 3,1, Bulgari più 3%, Banca Popolare di Milano più 3 e anche le CIR guadagnano quasi il 3%. Scusatemi, oggi le condizioni cliniche non sono delle migliori. Andiamo avanti, Exor più 2,6%, Unipol più 2,1% e Italcementi più 2% come Fondiaria Assai. L'1,90 lo guadagna Atlantia, l'1,80 Tenaris e anche Autogrill Prismian più 1,6%. Finmeccanica 1,5% di rialzo. Fronte opposto, chi perde? Solo Ansaldo STS, che perde l'1,2%, UbiBanca meno 0,2% anch'essa. 349 238 6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, sui temi che tratteremo, anche il tema del private equity. Oggi si è svolta l'assemblea annuale dei fondi del private equity. Cos'è il private equity? Era una grande moda qualche anno fa, cioè fondi privati per comprare società, spesso in quota di maggioranza, spesso per gestirle, risanarle 4-5 anni e poi rivenderle. Ebbene, sembrava la panacea di tutti i mali per le piccole e medie imprese in difficoltà. Il private equity ha frenato e non poco dopo quello che è successo sui mercati finanziari. Ne faremo un bilancio oggi. Chiaramente parleremo anche di Francoforte, o meglio della Banca Centrale Europea, che ha lasciato i tassi invariati. Jean-Claude Trichet oggi ha tenuto la sua conferenza stampa a Venezia, non a Francoforte, assieme a Mario Draghi, il governatore della Banca d'Italia. Ne parleremo nella seconda ora del programma. Tassi invariati, prospettive, ve le dico in maniera molto molto rapida. Le aspettative di inflazione secondo la Banca Centrale Europea sono basse, così come i tassi appunto all'1% per quanto al minimo storico restano appropriati. La ripresa nell'area euro sarà comunque, dice la Banca Centrale Europea, disomogenea. Questa non è una bella notizia, vuol dire che non vi sarà una crescita, diciamo, tutti assieme complessiva. Gli stimoli arrivati all'economia, quindi le misure prese dai governi ma anche dalle banche all'economia, sì, hanno avuto effetti migliori del previsto. Di Mario Draghi ascolteremo poi la valutazione più di carattere economico e finanziario. Vi faccio ascoltare solo un paio di battute in inglese, quando alcuni giornalisti stranieri gli hanno chiesto se dopo le vicende, insomma, dopo Lodo Alfano bocciato dalla Corte Costituzionale, cambiassero lo scenario economico. Sentiamo Draghi su questa prima risposta. Well, it's a short answer. No change in the economic outlook from the recent political events. in inglese, chiarissimo, la risposta è molto breve, non cambia nulla. E poi hanno insistito i giornalisti, sempre stranieri, ma insomma è vero che lei si candida, come ha scritto Wall Street Journal a fine settembre dopo il vertice di Pittsburgh, per diventare il nuovo numero uno della Banca Centrale Europea. Risposta di Draghi: we have a president and it couldn't be better. Ecco, va. Due secondi da questa risposta, quattro secondi quell'altra, questo è lo stile del governatore. Le banche, è tornato il presidente dell'ABI, Corrado Faissola, sul tema dei prestiti alle imprese, dice non è vero, il credito non è diminuito, continua a crescere il credito che le banche concedono ai privati e alle imprese. Io ormai non so più cosa dire, insomma, ci sono due fronti e due mondi diversi che non hanno molte tangenze. Faissola ha anche fatto notare che le sofferenze bancarie invece stanno raggiungendo un livello al limite del sopportabile. Le sofferenze lorde sono pari a 51 miliardi di euro ad agosto, sono state 1,2 miliardi in più rispetto a luglio e quasi 9 miliardi in più di sofferenze bancarie rispetto ad agosto 2008, e che è un indicatore delle difficoltà che hanno soprattutto le imprese. Ancora. Per quello che riguarda i dati diffusi oggi dall'Istat, gli immigrati, l'Istat si è oggi concentrato sulla percentuale di immigrati che rispetto alla popolazione residente è il 6,5%, ma la crescita degli immigrati residenti in Italia è ancora molto elevata. Nel 2008 si è registrato un più 13,4%, l'incremento dello scorso anno era stato del 16,8%, ma dovuto soprattutto agli immigrati della nuova Europa, quindi Romania, ma non solo. Va bene. Con l'ultima notizia introduciamo il primo tema, quello che ieri non siamo riusciti a trattare, e mi riferisco alla situazione sociale del paese. Oggi la Università Cattolica, assieme alla Fondazione per la Sussidiarietà, ha diffuso dei dati sulla povertà in Italia. Il 4,4% delle famiglie soffre la fame, con spesa per cibo e bevande inferiore ai 222 euro al mese. Praticamente stiamo parlando di 1,5 milioni di famiglie, sono come profilo chiaramente, tendenzialmente abitano al sud, sono disoccupati, hanno un basso titolo di studio e una famiglia numerosa. E questo, diciamo, per quello che riguarda il tema della povertà. Ieri si è discusso in un convegno di Italia Futura, vi dico subito, non mandatemi mail di carattere politico perché tanto SMS non le leggo, ci interessano i temi economici. In un convegno, dicevo, il primo rapporto dell'Associazione Italia Futura, si è discusso di mobilità sociale. Mobilità sociale o immobilità sociale si potrebbe dire. Perché? Perché alcune delle cose che mi hanno impressionato nel rapporto che adesso commenteremo sono le seguenti. Se si chiede agli italiani sopra i 50 anni se la loro condizione sociale, il loro stato sociale è migliorato nella loro vita, il 40%, cioè 4 su 10, ti dicono sì. Se chiedi ai quarantenni, la percentuale di quelli che dicono che hanno avuto un miglioramento della loro condizione sociale scende al 25%. Tra i trentenni scende al 21%, tra i ventenni al 6%. Cosa vuol dire al di là dei numeri? Vuol dire che da alcuni anni, da alcuni decenni, si è bloccato l'ascensore che storicamente, dagli anni 50 in poi, portava una persona a iniziare a un certo livello di reddito e anche soprattutto di status sociale, per poi finire la sua vita a un livello di reddito più alto e di status più alto, quello che si chiama l'ascensore sociale. È un ascensore sempre più lento che fa sempre meno piani. Aggiungo un ultimo dato: dopo l'Inghilterra l'Italia è il paese dove è più forte la correlazione tra lavoro del padre e lavoro del figlio. Siamo al 44% di architetti figli di architetti, il 42% di avvocati e notai figli di avvocati e notai, il 40% di farmacisti figli di farmacisti, l'80% dei giovani imprenditori associati a Confindustria figli di imprenditori, e per i giornalisti non conosco la classifica ma dubito che sia molto diversa. Ancora, siamo il paese dove si spende meno per infanzia e famiglia. Ieri ne hanno parlato il presidente Italia Futura Montezemolo, ma anche il presidente della Camera Gianfranco Fini. Sentiamo Montezemolo. Forse, e lo capisco, qualcuno potrebbe storcere il naso al pensiero che una persona come me, che ha avuto molto dal proprio lavoro, che è un privilegiato, che vive in una condizione di grande benessere, si occupi con tanta passione e convinzione del tema, di un tema come la mobilità sociale. Al contrario, ritengo che senza quell'ascensore sociale che lo rende giusto ed efficiente, il capitalismo perda slancio e diventi solo oligarchia e cooptazione. Negli ultimi 20 anni di mio lavoro alla Ferrari ho sempre cercato di mettere il nostro straordinario capitale umano al centro, puntando su merito e talento. E la più grande soddisfazione per un imprenditore è di vedere che dall'interno dell'azienda crescono persone che entrano come operai ed escono come amministratori delegati. Questo è il grande successo di un imprenditore che ha a cuore il capitale umano. Viviamo in un paese in cui la speranza di migliorare la propria condizione diventa sempre di più un bene raro. E ciò rappresenta un fallimento non solo della politica, ma della classe dirigente nel suo complesso. È il fallimento di una generazione come la mia, che ha avuto il privilegio di nascere dopo la guerra, che ha avuto tanto, ma non è riuscita a trasformare il proprio successo individuale in un successo collettivo, in un successo di paese. Così Montezemolo, presidente della Fiat e presidente dell'associazione Think Tank, per quelli che hanno studiato Italia Futura. Ieri è intervenuto anche il presidente della Camera Gianfranco Fini, puntando l'attenzione sulla necessità a questo punto di fare riforme in tempi rapidi. Non abbiamo tempo da perdere e lo dobbiamo fare non soltanto se pensiamo davvero al futuro dei nostri figli, ma anche, ne sono convinto, se vogliamo ridare un po' di senso compiuto alla politica con la P maiuscola. Io sono ottimista, se tutti saremo in qualche modo responsabili e all'altezza del compito, smettendola, ognuno per la propria parte, di dire fosse dipeso solo da me o da noi l'avremmo fatto, ma gli altri. L'Italia è di tutti, la situazione è per tutti oggettivamente connotata da alcuni nodi che vanno risolti. Su altre questioni certamente ci sono delle divisioni, c'è un confronto, ma c'è da parte di tutti coloro che hanno occhi per vedere la necessità di intervenire. Beh, smettiamola di dire lo faremo in futuro, cerchiamo di farlo oggi, perché se lo facciamo oggi forse il futuro è un po' più vicino a quel che vogliamo. Se non lo facciamo neanche oggi, il futuro ci arriva dentro casa e non avremo contribuito minimamente a costruirlo. Lo vivremo, magari con un po' di rassegnazione, un po' di rimpianto per quel che poteva essere e non è stato. Allora, vedo che alcuni contestano le percentuali sui figli di avvocati, figli di notai, figli di architetti, sono quelle del rapporto presentato. Purtroppo non le conosco veramente quelle dei figli di giornalisti, ma ripeto, non penso siano così distanti. Che questo sia un paese più bloccato di altri a livello europeo mi sembra molto chiaro. Comunque, concentriamoci sul rapporto presentato ieri da Italia Futura e lo facciamo con chi il rapporto l'ha curato, ossia la professoressa Irene Tinagli, che insegna all'Università di Madrid ed è consulente del Dipartimento Affari Economici e Sociali dell'ONU, della Banca Centrale Europea. Buonasera professoressa. Buonasera. Dunque, il rapporto che lei ha presentato, già ricordavamo insomma come si è peggiorata la situazione nelle nuove generazioni su chi ritiene di aver migliorato il proprio stato sociale o addirittura quanto alta sia in Italia rispetto a tutti gli altri paesi, tranne l'Inghilterra che viene subito prima di noi, la correlazione tra lavoro del padre e lavoro del figlio e soprattutto reddito del padre e reddito del figlio. Non è un mistero che comunque la Gran Bretagna resti uno dei paesi più classisti in questo senso. Da noi appunto la metà degli architetti, la metà degli avvocati, la metà dei notai, immagino anche cifre analoghe per i giornalisti, l'80% dei giovani imprenditori sono figli di imprenditori, di notai, di giornalisti, di avvocati. A me, professoressa, quello che ha più impressionato dei dati che avete presentato è un altro aspetto. Non voglio essere biografico, ma quando, insomma, 20 anni fa io uscii di casa, avevo 18 anni, quindi 22 anni fa, non eravamo tantissimi usciti di casa 18 anni per motivi di studio. Ebbene, dati alla mano, negli ultimi 20 anni il numero di donne e uomini che restano a casa con i genitori è praticamente raddoppiato. E questo mi sembra il dato più emblematico di una sconfitta. Cioè, se a fine anni 80, inizio anni 90... si era intorno a un 55% scusate, 20% di donne che a 30 anni ancora abitavano con i genitori e 40% dei maschi. Adesso siamo arrivati a un 50% di donne che a 30 anni abitano ancora con i genitori e un 70% di maschi. Se passiamo poi a quelli che ci abitano ancora a 35 anni, notiamo che 20 anni fa erano il 9% delle donne e il 15% degli uomini, adesso siamo al 20% delle donne e al 40% degli uomini che a 35 anni abitano ancora con i genitori. E questo, a mio avviso, è la sconfitta, diciamo, di più di tante analisi della mobilità sociale, della capacità per i giovani di uscire di casa e costruirsi un'esistenza. Le vostre proposte. Allora, lei ha avanzato tre proposte. Vorrei partire da quella che, visto che parlavamo di casa, in sostanza di emancipazione, quella si chiama affitto di emancipazione, anche perché viene da un'esperienza già esistente in Spagna, ossia la renta de emancipación. Sì. Sì, questa è un'iniziativa che è mirata proprio a supportare i giovani lavoratori che sono agli inizi della carriera, che vogliono rendersi autonomi, uscire dalla famiglia di origine, ma chiaramente fanno molta fatica, perché in Spagna, come in Italia e in molti altri paesi, oggi i salari di ingresso di un giovane lavoratore, anche quando si è laureato, sono bassissimi e quindi molto spesso non sono sufficienti nemmeno a coprire i livelli dei affitti che ci sono nelle grandi città, quindi questo rappresenta un blocco enorme anche per questi giovani, che spesso non riescono nemmeno a andare a perseguire delle opportunità dove si presentano nelle grandi città, perché non sarebbero in grado di neanche bilanciare l'entrata con i costi e finiscono per restare inchiodati al loro paese, accontentandosi magari di quello che capita, però stando a casa con la famiglia che almeno dà qualche supporto. Ecco, questo è una situazione veramente che non possiamo più accettare. E in Spagna, visto che la Spagna, insomma, non è così distante né diversa dall'Italia, che cosa hanno fatto? Cos'è questo affitto d'emancipazione? Questo è un assegno mensile, molto semplice funziona, è un assegno mensile di 200 euro, loro 210 euro, che va ai giovani lavoratori tra i 22 e i 30 anni, quindi molto, molto semplice. Sotto un certo reddito, immagino. Sì, sotto un certo reddito, però non è una soglia impossibile come a volte mettiamo noi, la soglia è una soglia di 22.000 euro, quindi molti giovani rientrano in questa soglia. Sì, anche perché tra i 22 e i 30 anni, diciamo, le dichiarazioni dei redditi dovrebbero essere un po' più affidabili, dico rispetto a età più adulte, anche perché di solito uno è praticante o collabora, insomma, difficilmente è già completamente autonomo. Comunque, al di là di questa mia osservazione, sotto i 23.000 euro lordi di reddito all'anno, un giovane tra i 22 e i 30 anni riceve dai 200-300 euro, se ho ben capito, 200 euro per pagarsi un assegno mensile d'affitto. Vedo alcuni messaggi a 349-238-6666 che te ne fai 200 euro. Beh, non è detto, perché se uno la casa magari la divide e ci aggiunge altri 200 euro di suo, non è vero, è comunque un tentativo. Vabbè, agevolazioni fiscali anche per i proprietari di casa sotto i 35 anni, voi proponete sul modello sempre spagnolo? Una detassazione per i proprietari per incentivare ad affittare ai giovani, che è un altro elemento importante, perché in Italia, come anche in Spagna, il mercato dell'offerta anche di affitti è molto bloccata, è molto difficile, quindi questo aiuta a sbloccare questo mercato, quindi a stimolare sia la domanda che l'offerta, altrimenti sarebbe caduta nel vuoto. Quindi, da un lato, sul fronte emancipazione, che ripeto è un problema reale, perché un giovane in casa a 30 anni, a 35 anni, di fatto è una persona a cui non viene permesso di diventare adulto, poi lo chiamiamo giovane, ma a 35 anni in molti paesi, io non dico che sia vecchio no, ma adulto sì, per Dio. Comunque, andiamo avanti. Questo è l'affitto d'emancipazione. Altra cosa che voi proponete è il fondo di opportunità. Che cos'è? Il fondo opportunità è un fondo che si accende quando nasce un bambino con una cifra di 1000 euro, però è intestato esclusivamente al bambino, non va ai genitori, e ogni anno si alimenta, quindi ogni anno viene versata una somma che è uguale per tutti i bambini fino alla fine delle elementari, e dopo è legata al merito, alla frequenza scolastica, ai risultati scolastici, finché un ragazzo completa le scuole superiori. Al completamento della maturità i più meritevoli avranno potuto accumulare una cifra pari a 20.000 euro che potranno usufruire per percorsi formativi o universitari o professionali, quindi per perseguire questi tipi di opportunità formative. Quindi 1.000 euro iniziali intestati al bambino, 600 euro ogni anno di scuola elementare, dalle medie in poi invece questa somma è legata al merito, che già sarebbe una rivoluzione in questo paese, in cui una volta, lo dico per inciso, i ragazzi che pigliavano un brutto voto a scuola, anche nel caso mio, venivano inseguiti dai padri, e adesso i padri vanno a picchiare gli insegnanti. È una cosa incredibile, che la dice lunga su, no, la sto estremizzando, ma insomma vediamo casi di padri che picchiano gli insegnanti perché il figlio ha preso un brutto voto, è stato bocciato. Non che vanno a dire forse c'ho il figlio un po' mona, come dicono da alcune parti. Vabbè, andiamo avanti. 1000 euro iniziali, 600 euro per ogni anno di scuola elementare, dalle medie in poi somma legata al merito, che può andare quindi, a seconda che tu abbia dei bei voti, fino a 1.400 euro l'anno, oppure zero se tu vieni rimandato o addirittura bocciato. Voi calcolate che in questo modo si possa accumulare un tesoretto, un termine che non mi piace, ma insomma fino a 20.000 euro, che se uno si fermasse alla maturità, cosa capiterebbe di questi soldi depositati? Se ne può intascare diciamo il 40%, per cui magari se un ragazzo decide di andare a lavorare si prende un 40%, che, oppure, e poi il restante lo incassa se intraprende dei percorsi formativi, e viene erogato sotto forma di piccolo stipendio mensile, quindi va ad aiutare, a supportare chi va all'università o chi intraprende dei percorsi formativi, quindi avrà un piccolo stipendio mensile per un massimo di 3 anni, e poi ci sarà un premio alla laurea o al conseguimento di diploma universitario. L'obiettivo qual è? Perché siccome vengono dati a tutti questi soldi, qui non c'è voi non immaginate legato al reddito, l'obiettivo non penso sia facilitare, soprattutto per alcuni giovani, l'istruzione dell'obbligo, è forse più legato all'abbandono scolastico, cioè a quella fetta di giovani che si perdono tra la maturità o poco prima della maturità. Praticamente il 20% dei ragazzi italiani tra i 18 e i 24 anni abbandona le scuole e non si è iscritto a nessun programma di formazione. Assolutamente. Cioè, l'obiettivo è quello, cioè è dire, se tu continui a studiare anche dopo i 18 anni prenderai anche il 60% di questi 20.000 euro, un po' questa è la logica? Innanzitutto c'è già un forte l'obiettivo è anche di incentivare alcuni ragazzi che spesso non arrivano nemmeno al compimento delle superiori ad avere un incentivo forte ad arrivare alle superiori, a finire le superiori, e già quello sarebbe un buon risultato, perché ci sono aree del paese in cui anche questo è un problema, è un problema serio, quindi anche trasmettere a loro quanto è importante, che è conveniente anche per loro completarlo, e poi stimolare i giovani nella fascia tra 18 e 22. Noi veramente, come diceva, abbiamo un tasso di giovani che in quella fascia d'età che non sono in nessun programma formativo, questa è una gravissima perdita, quindi stimolarli a investire in se stessi. Certo. Poi c'è un altro aspetto che riguarda, io forse l'ho sposto male, ma voi avete tutto un insieme di proposte e di progetti, dalla culla, si sarebbe detto, non alla tomba in questo caso, ma all'età adulta, e quindi il fondo opportunità riguarda l'età scolastica, i bambini, e poi l'età, la scuola dell'obbligo, e anche quella poi come scelta volontaria. L'affitto d'emancipazione, che abbiamo prima trattato, riguarda invece quando un ragazzo esce di casa, o dovrebbe uscire di casa, e poi c'è una proposta anche per le giovani famiglie, quelle che da poco hanno avuto un figlio, che stanno per avere un primo figlio o un secondo figlio. Altro tema delicatissimo in questo paese, se di famiglia si vuole parlare non in maniera ideologico religiosa, ma in maniera concreta, come welfare, come aiuti veri alle famiglie. 17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Due o tre precisazioni ai decine e decine di messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Molti di voi chiedono, sì, ma i costi? Adesso ci arriviamo ai costi, perché è una domanda giusta, corretta, soprattutto in un programma di economia, se no non è che si possono fare le proposte e non pensare a quanto costino. Secondo tipo di messaggi, contesta il fatto che i giovani non se ne vadano da casa perché ci sono meno opportunità, ma perché sono più pigri, più svogliati, più viziati e quant'altro, direbbe Padoaschioppa con quell'infelice uscita, più bamboccioni. Sì, ma non è tutto qua, non può essere tutto qua, non penso che la quota di bamboccioni sia duplicata negli ultimi 15-20 anni, c'erano anche quando avevo 18 anni io, e invece quello che vedo è un paese che è sempre più bloccato. Secondo me c'è un problema proprio di costi e di opportunità. Terzo aspetto, un po' più così di colore, quando ho definito il figlio con un'espressione veneta, non è che fosse riferito ai figli dei veneti, potevo usare pirla in Lombardia e altri termini nel resto d'Italia, era per dire che quando si arriva al paradosso che se tuo figlio prende brutti voti, i genitori in alcuni casi vanno a protestare con l'insegnante e a mettergli le mani addosso e non protestano o diciamo agiscono sul figlio, secondo me c'è un ribaltamento dei valori. Comunque andiamo avanti per l'ultima proposta arrivata dal rapporto della professoressa Irene Tinagli in collegamento con noi. Dicevo, il pacchetto giovani famiglie, che cosa fare per un paese che ha il tasso di natalità più basso d'Europa, proprio perché in Italia fare un figlio è un aggravio, è un onere e molto spesso nemmeno neanche un onore. Prego. Sì, è proprio un pacchetto che aiuta in questa fase delicatissima in Italia, quando uno si sposa e fa dei bambini è completamente lasciato solo, ha dei contraccolpi terribili sia sulla carriera che anche sulle proprie condizioni economiche, quindi ci sono forti contraccolpi, anche per questo che molti rinunciano, e questo è un peccato. Noi vogliamo cercare di aiutare sia questi giovani genitori ad avere quindi l'opportunità di portare avanti le loro carriere, sia anche i bambini che nascono in queste famiglie a non trovarsi in delle condizioni di disagio economico che abbiamo visto nelle analisi sono molto diffuse in Italia. Quindi il pacchetto giovani famiglie ha tre tipi di misure: un supporto ulteriore all'affitto, quindi una sorta di estensione del supporto all'affitto per i giovani quando ci sono dei bambini, la rimborsabilità parziale della babysitter, perché se stiamo a aspettare la copertura al 100% degli asili, chissà quando arriviamo, la rimborsabilità della babysitter già funziona benissimo in Francia, ha avuto un successo enorme, dà molta flessibilità ai genitori, e infine una fiscalità agevolata per il lavoro delle mamme, perché in Italia troppe mamme rinunciano a lavorare dopo che hanno fatto un bambino, il 30% delle giovani mamme non torna al lavoro, o peggio ancora ritardano il figlio, ne fanno uno solo e non due o tre, per non rinunciare a una prospettiva di carriera sul lavoro, certo. E infatti, quindi in questo modo un incentivo per le mamme, quindi una detassazione, un abbattimento dell'imponibile dei primi 10.000 euro di reddito prodotti dalla mamma, quindi ne beneficia tutto il nucleo familiare, non solo la mamma chiaramente, però è un incentivo anche per non rinunciare a queste energie che sono così importanti per la famiglia e per il paese. Allora, anche qui vedo dei messaggi al 349-238-6666, attenzione, adesso arriveremo ai costi, però... In Francia il tasso di natalità è il doppio rispetto a quello italiano ed è un paese simile a noi per tantissime altre cose, per cui non vorrei che ogni volta il discorso sui bambini in questo paese ci si entusiasma o così ci si inalbera sui figli prima che nascano o quando devono ancora nascere, poi una volta nati politiche sociali se ne vedono pochissime. Allora, l'agevolazione fiscale sui babysitter o rimborso parziale esiste in Francia, è già applicata e permette alle donne francesi di lavorare quanto e più di quelle italiane, ma di fare il doppio dei figli in media. Queste secondo me sono politiche per la famiglia, quella vera, non quella teorica e quella così in nuce, in fieri e ancora in divenire. Vabbè, meglio che mi fermi qua. Andiamo avanti sui costi, perché le politiche sociali, per quanto servono, e anche qui uso l'esempio francese, la Francia è il paese che ha il calo più modesto dell'economia quest'anno perché tengono i consumi in Francia tengono perché c'è una politica di welfare fatta molto bene che fa sì che in Francia, tutto sommato, la domanda interna, come dato aggregato, non sia calata così tanto. Queste proposte, però, professoressa Tinagli, hanno dei costi. Voi avete fatto a spanne, perlomeno, un calcolo di quanto potrebbe costare ognuna di queste proposte? Sì, qualche stima chiaramente l'abbiamo fatta, soprattutto per il fondo opportunità, che è quello più impegnativo anche nel lungo periodo, sì. E anche per gli affitti di emancipazione, che potrebbe essere quello di più immediata applicazione. Mm-mm. Per esempio, mi può dire più o meno di quanti miliardi stiamo parlando? Beh, certo, guardi, gli affitti di emancipazione, poi anche qui dipende, tipo il primo anno si tratterebbe di cifre abbastanza contenute, anche le stime spagnole sono sui 400-430 milioni, a regime si sarebbe su 1.200.000.000 all'anno. Sul 1.200.000.000, mi scusi, l'ho persa, per quale proposta? L'affitti di emancipazione. Gli affitti di emancipazione, cioè le agevolazioni fiscali e l'assegno mensile per i giovani che vogliono trovarsi una casa da soli, cioè vogliono... Sì. 1.200.000.000. Il fondo opportunità? Il fondo opportunità chiaramente è un impegno molto maggiore, mm-hmm. però il fatto di legarlo al merito lo rende anche economicamente più agevole. Si tratterebbe sui, a regime, quindi parlo nell'arco dei 20 anni, quando si ne beneficiano tutti, di sui 5 miliardi all'anno. 5 miliardi all'anno. E il pacchetto giovani famiglie, sempre come stima? Il pacchetto è molto più difficile da stimare, perché poi lì dipende uno da che tipi di soglie, ci sono molte cose che variano dalle soglie di reddito, noi non ci siamo sbilanciati troppo, dipende da quante mamme reagiscono. Posso dire solo questo, che la parte più grossa del pacchetto famiglie, più impegnativa, che è quella della rimborsabilità delle babysitter, in Francia, dove c'è quindi una realtà che è il doppio della nostra, costa sui 4 miliardi. L'anno scorso è costata sui 4 miliardi. Allora, diciamo a span, 5 miliardi per l'opportunità dei ragazzi quando studiano, 1.200.000.000 per l'affitto per i giovani e altri 4 miliardi di pacchetto giovani famiglie. Vedo dei messaggi che dicono, beh, insomma, stiamo parlando di tanti soldi. Allora, parte il fatto che non è che tutti devono partire assieme, ma mettiamo anche che parta assieme e che siamo sui 10 miliardi di euro complessivamente e a regime, dando, cioè, cambiando il paese, cambiando le opportunità dei giovani, delle giovani coppie, della voglia di fare figli, della voglia di emanciparsi. Allora io dico una cosa: ogni paese sceglie come spendere i propri soldi. Il ponte sullo stretto costa 6 miliardi, il Mose a Venezia ne costa circa 4, l'ICI 2 miliardi e mezzo in meno per le casse dello Stato. E poi, se andiamo a guardare, visto che molti di voi ci scrivono questa settimana quanto è costata l'alta velocità tra Torino e Milano, arriverà a costare oltre 40 miliardi, quando in Francia per un tratto analogo ne avrebbero spesi 10. Allora ogni paese poi decide quali sono le sue priorità, se spendere 40 miliardi per una cosa che ne può costare 10 o 15 e che doveva costarne 15 inizialmente, e destinare questi soldi alle generazioni future, a cui tra l'altro regaleremo noi più adulti un debito stratosferico, diciamo, che nessun altro paese al mondo conosce. Grazie alla professoressa Irene Tinagli, che insegna all'Università di Madrid. Una battuta, professoressa: il fatto che lei insegna a Madrid vuol dire che lei è l'esempio del fallimento delle opportunità che questo paese ha dato, o una scelta sua? No, mi dica. Ma è stata molto una scelta mia, però beh, insomma, qualche cosa c'entra. Quanti anni ha così? 35. Oh, grazie anche per averci detto, non sono cose che chiediamo di solito, ma era importante alla luce del ragionamento che stavamo facendo. Grazie alla professoressa Irene Tinagli. Grazie mille a voi, buonasera. Chiedo scusa per chi si aspetta la borsa, la faremo a brevissimo. La borsa comunque ha chiuso con un 1% di rialzo. Mi sembra di aver risposto all'obiezione: sì, ma i soldi dove si trovano? Ma a me il benaltrismo interessa poco. Se andiamo avanti sempre dicendo che altre sono le priorità, altri sono i problemi, stiamo peggiorando l'ascensore, la mobilità sociale. E anche dire che molti dei giovani sono così fannulloni e quant'altro, bamboccioni che pensano solo agli aperitivi e non vedo molti messaggi che arrivano in questo senso. È vero, cioè molti di voi scrivono: io da operaio sono andato via di casa a 20 anni, io da figlio di persone modeste sono riuscito ad andare via di casa senza aiuti. È vero, però questo non vuol dire che non si possa cercare di fare qualcosa di più per levare al paese questo triste primato dei figli che stanno il più tempo possibile in casa, della mobilità sociale più ferma, dei figli che fanno il lavoro dei padri e via così discorrendo. Da qualche parte andrà preso, o se no, evidentemente va bene così, va sicuramente bene così ai figli di... Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, vedo che c'è chi scrive: ah, volete chiudere i cantieri per finanziare i bamboccioni. Ognuno capisce quello che vuole capire. No, si è detto solo che, visto che questo paese sciala, per usare termini di altre regioni italiane, miliardi e miliardi, perché non riesce a controllare gli appalti, i lavori e le opere, partono da 15 miliardi come nel resto d'Europa e arrivano a 40 miliardi. Ebbene, se le tre proposte avanzate da questo rapporto per fornire un aiuto ai giovani, anzi un incentivo ai giovani a restare allo studio, dandogli una piccola borsa di studio alla fine della carriera, della carriera di studi, agevolazioni fiscali se prendono la prima casa e sono sotto i 30 anni, agevolazioni fiscali e contributi se hanno un figlio, babysitter, ecco, se questa roba qua viene a costare 10 miliardi all'anno, non rispondete, ma non li abbiamo, perché per portare l'alta velocità da 15 a 70 miliardi o a 40 miliardi, lì i soldi ci sono sempre, tutto qui, nessuno vuole levare l'alta velocità, e ci mancherebbe, abbiamo fatto decine di puntate sulle infrastrutture. Ancora vedo che alcuni di voi continuano sul tema del passaggio generazionale. Allora guardate, facciamo una cosa, prima di arrivare ai mercati saluto il dottor Ludovico Mantovani, che è partner di Perion Corporate Finance. Buonasera dottor Mantovani. Buonasera. Voi come ogni anno assegnerete il premio di padre in figlio al miglior passaggio di testimone in azienda, che è un altro tema delicatissimo all'interno del tema più complessivo dell'ascensore sociale e della mobilità bloccata di questo paese. Quando lo segnerete e sulla base di quali criteri? Ma la data non è ancora definita, stiamo selezionando i candidati, cosa che avverrà entro la fine del mese di ottobre, e cercheremo, come è successo l'anno scorso, di selezionare un caso dove venga premiata un'azienda eccellente nella quale sia evidente l'opera del genitore e l'opera del figlio, oppure sia evidente il passaggio positivo dalla vecchia alla nuova generazione. Quindi stiamo facendo la selezione in questi giorni e vedremo di trovare dei casi interessanti da portare avanti, insomma, alla giuria. Ecco, i dati che voi avete a disposizione, per cui fate il monitoraggio ogni anno, per esempio nei tre settori chiave della nostra industria, meccanica, moda e arredamento, le aziende proprietà familiare quante sono e soprattutto si sta muovendo qualcosa nel passaggio generazionale? Guardi, i dati sono abbastanza difficili da interpretare, anche perché poi esistono situazioni estremamente variegate. Questo sempre. Notiamo che sicuramente si sta muovendo qualcosa, se non altro perché ogni anno che passa è un anno in più, quindi gli imprenditori di prima generazione fanno fatica. In questo momento, secondo me, esiste anche un altro tema, che la crisi di questo periodo sta obbligando le aziende a ripensarsi, e quindi in questo spesso notiamo che ci sono insomma, le forze nuove possono dire la loro, ecco, e quindi questo sicuramente per certi versi può rappresentare un fatto positivo, può rappresentare un momento di discontinuità e di cambiamento. In bocca al lupo, l'anno scorso, lo dico, l'ha vinto un'azienda di Mantova, mi si ricorda il nome, perché la Tre Re. È un'azienda che produce calze tecniche, ecco, questo è un caso calze tecniche, cosa sono le calze tecniche? Le calze tecniche sono delle calze che vengono usate nell'abbigliamento sportivo, per sciare, per fare sport, certo. E quindi si è passati da un prodotto povero, era un'azienda che produceva le calze, quelle che mettiamo tutti i giorni, calze che chiaramente oggi vengono prodotte a costi molto bassi nei paesi, nei paesi in via di sviluppo, a calze invece ad alta tecnologia, con dei materiali particolari, con una struttura di costruzione ovviamente pensata per gli sport che vengono in cui vengono usate le calze, e che chiaramente hanno un prezzo di vendita completamente diverso. Azienda che esporta il proprio prodotto in tutto il mondo, quindi che ha raggiunto un grandissimo successo, pur con numeri assolutamente limitati, parliamo, se non ricordo male, di un'azienda che fattura intorno ai 40 milioni di euro. Beh, complimenti comunque alla capacità di innovare. Certo. Grazie anche al dottor Ludovico Mantovani, appunto, anche quest'anno il premio di padre in figlio. Adesso c'è la borsa e ancora qualche sms. Molti di voi dicono che questi 10 miliardi potrebbero essere trovati grazie alla lotta all'evasione fiscale. Sì, lo sappiamo. Ricordo che il tesoretto, il mitico tesoretto dell'allora governo Prodi, valeva 10 miliardi in un anno. Sì, certo, ci sono tanti modi. Basta non dire che un paese come il nostro, che ne spreca tanti e ne spende altrettanti, non riesce a trovare 10 miliardi per politiche serie, meritocratiche, di aiuto alle famiglie con i figli, ai giovani che vogliono uscire di casa e ai ragazzi che vogliono proseguire gli studi. Non è accettabile in un paese che si vanta di essere la sesta economia al mondo. Adesso però la borsa. Il tema continua a piacere, però vedo che quindi ma non si preoccupi, il ponte sullo stretto verrà tutto finanziato dai privati. Lo voglio vedere, perché dicevano così anche per la TAV e poi lo Stato ha pagato il 100% dell'opera. Se sarà così, ben venga, però lo voglio vedere. Per ora il carico è alla società ponte sullo stretto di Messina, ma di questa cosa io e Giuseppe Cruciani, commentando un suo libro su questo tema, la pensiamo in maniera diametralmente opposta. La borsa, dicevo, più 1% FTSE MIB, Parigi più 1,3%, Francoforte più 1,3%, Londra più 0,90%, l'America sta guadagnando lo 0,95%, quindi continuano a essere ben intonate tutte le borse europee e americane. Questa mattina è positiva anche Tokyo. Il miglior titolo Fiat più 5%, Banca Popolare più 4,1%, Buzzi Unice più 3,5%, Banca Popolare di Milano più 3,30%, il 3,3% lo guadagna anche Pirelli, il 3,1% Bulgari e anche le CIR. Exor più 2,82%, Unipol più 2,40%, Fondiaria più 2,3%, Italcementi più 2,1%, Atlantia più 2%. Continueremo a parlare di borsa anche dopo il GR, però intanto un primo commento su Fiat, come sempre ai colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera. Fiat. Fiat è stata spinta soprattutto nella seconda parte della giornata, era ben intonata già all'inizio, e ha accelerato con l'accelerazione di Wall Street tutto il comparto auto e Fiat in particolare grazie alle parole di Marchionne, che in un'intervista rilasciata al quotidiano canadese Globe and Mail ha detto per Chrysler ritorno all'utile nel giro di 24 mesi. Il 4 novembre, ricordiamo, verrà presentato alla Casa Bianca il piano di rilancio di Fiat su Chrysler. Questo ha fatto scommettere gli investitori su Fiat, inoltre anche l'annuncio di una joint venture tra CNH, la società di produzione di mezzi agricoli di Fiat, e la russa Kamaz. Questi due elementi hanno permesso a Fiat di essere il miglior titolo e di toccare anche quota 9,8 euro nel corso della seduta. Assolutamente, il titolo che è anche, diciamo, si è anche tranquillizzato, per dire così, oggi durante alcuni momenti della seduta, però, insomma, vicinissimo ai 10 euro per azione. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Non possiamo tornare sul tema della mobilità sociale, vedo però con piacere che è un tema che ha suscitato moltissimi messaggi e vi ritorneremo più avanti. Vorrei concludere invece l'approfondimento di borsa, giornata positiva in tutte le borse europee, rialzi superiori al punto percentuale anche a Milano, più 1,1%, di Fiat abbiamo già detto, miglior titolo più 5,1 a 9,81 euro, Banco Popolare più 4,2, Popolare di Milano più 3,30, Unipol più 2,40%. Andrea Fontana, i bancari. Sì. Sì, per quanto riguarda i bancari, ancora un'ottima performance della Popolare di Milano, che già da tre sedute si segnala come, diciamo, una riscoperta da parte degli investitori, anche perché qualcuno la considera sottovalutata rispetto agli altri, ma la giornata da protagonista l'ha fatta il Banco Popolare, grazie alle indiscrezioni riportate oggi dal Sole 24 Ore sulle trattative in stadio, sembrerebbe avanzato, con il gruppo inglese Barclays per vendere un asset importante del Banco Popolare che è Effibanca, che già da un paio d'anni è potenzialmente sul mercato, non si è mai trovato un compratore anche per effetto della crisi economica che certo non ha facilitato la ricerca di un acquirente. Ora in questi giorni, in discrezione sulle 24 ore, nei giorni scorsi le parole di Saviotti, per il quale era stato prima raggiunto un primo accordo di confidenzialità con un potenziale acquirente, fanno credere al mercato che questa operazione si possa fare, e questo darebbe fiato senz'altro ai conti del Banco Popolare. Ecco perché il mercato ci ha scommesso oggi. Ancora sui titoli, Finmeccanica, Finmeccanica ha beccato una commessa in Libia, ne abbiamo parlato, c'è una nuova commessa o è sempre l'effetto Pentagono? Sì, sono le commesse promesse del Pentagono raccolte negli ultime settimane da TRS sono per circa 67 milioni di dollari. È da qualche giorno che Finmeccanica dà, diciamo così, un flusso di notizie positive, come le chiamano i trader, che spingono il titolo. Diciamo che oggi anche le parole dell'amministratore delegato e fondatore della controllata Finmeccanica negli Stati Uniti, cioè DRS, il fondatore appunto Mark Newman, che ha parlato, ha rassicurato il mercato sul budget della difesa americana appunto per quanto riguarda le spese militari, quindi rassicurato anche gli investitori di Finmeccanica. Ieri aveva parlato Guarguaglini in merito alla crescita dei ricavi nell'orizzonte 2010-2013, questo ha permesso agli investitori di non dimenticare il titolo con questo buon flusso di notizie, anche se ci si è un po' spostati su Finmeccanica dimenticando un attimino per oggi la controllata Ansaldo STS, che infatti è stata la peggiore del FTSE MIB, ha perso l'1,3%. Tra i titoli in evidenza, ne parliamo poche volte, Prysmian più 1,6%, vicina anzi praticamente a 13 euro per azione. Sì, grande attenzione per Prysmian da quando è saltata la fusione con l'olandese Draka. Sono diversi ragionamenti che si fanno, c'è chi dal punto di vista più industriale dei fondamentali va ad apprezzare l'attenzione di Prysmian, dell'ex Pirelli Cavi, nel segmento dei cavi per le utilities, considerato meno ciclico rispetto ad altri comparti. C'è chi invece fa altri ragionamenti, l'amministratore delegato Battista nelle settimane scorse ha parlato comunque di diverse possibilità di crescere per linee esterne, anche se è fallita l'operazione con gli olandesi di Draka, ma c'è anche chi si chiede che cosa faranno gli investitori di riferimento di Prysmian, cioè Goldman Sachs Private Equity, e se Prysmian possa diventare nel breve termine uno degli obiettivi di qualche operazione straordinaria sul mercato. In una battuta, il peggior titolo è Intec, anzi Societe Generale meno 3,7, e poi sulle 24 ore ha perso il 2,60%. Il miglior titolo invece è Cell Therapeutics, bene anche Louis Vuitton, guadagna l'8,6% e Astaldi 7,7%. Ma che succede su Cell Therapeutics? Più 21,5%? Sì, ne abbiamo già parlato ieri, la volatilità su questo titolo e in generale su molti titoli farmaceutici legati a brevetti è veramente, veramente forte. Ieri ricordavamo una performance molto negativa. Oggi, ieri era la peggiore, se non ricordo male. Esatto, ieri era stata oggi la peggiore. Del FTSE All Share, quindi dell'intero paniere. Oggi è stata la migliore, con una performance e volumi molto molto consistenti. Insomma, è difficile spiegare quando i movimenti sono così speculativi e legati a questione spesso poco industriale. Oltre a Cell, come tu ricordavi, oggi molto bene anche DMT, un'altra società su cui ci si chiede che cosa farà l'azionista di riferimento. Bene anche oggi, sempre sull'ipotesi di uno scorporo delle attività immobiliari da quelle dei pneumatici, Pirelli più 3,3%, Bulgari più 3,1%, CIR più 3%, Exor più 2,80%, Unipol più 2,40%, Fondiaria Sai più 2,3%, Italcementi più 2,1%, Atlantia più 1,90%, Tenaris più 1,80%, come Autogrill, Prysmian, e invece le generali e anche Campari e Finmeccanica più 1,6%. C'è una notizia uscita poco fa su Campari che ci porta a ragionare di nuovo su come le imprese quotate, ma non solo, si stiano finanziando in questo momento. Ne parleremo anche di cosa è successo, dove sono finiti i famosi fondi di private equity, quelli che per definizione investono comprando pezzi o la maggioranza di un'impresa, la risanano, così ristrutturano e poi la rivendono dopo qualche anno. Grazie per ora, Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore. On the basis of its regular economic and monetary analysis, the Governing Council decided Sulla base delle abituali analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Il livello attuale rimane appropriato. Le informazioni a nostra disposizione dall'ultima riunione di settembre confermano il precedente scenario. L'inflazione è risultata leggermente negativa a settembre, ma ci attendiamo che torni in territorio positivo nei prossimi mesi, per rimanere tale anche più avanti nel tempo. Allo stesso tempo, i dati in nostro possesso suggeriscono che l'economia dell'area euro si sta stabilizzando e le attese sono per una ripresa dell'attività con ritmo graduale. Tuttavia, permane un alto livello di incertezza. Riguardo le attese circa l'inflazione, ci attendiamo che nel medio-lungo termine rimangano fortemente ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenere il tasso di inflazione sotto o vicino il 2%. Ripeto che ci sono segnali di stabilizzazione dell'economia e indicazioni che dal secondo trimestre dell'anno non siamo più in caduta libera. Occorre però rimanere molto vigili e non dichiarare che le difficoltà sono finite. Siamo convinti che dobbiamo essere cauti e prudenti. We consider that we still have to be cautious, to be prudent. Con queste parole, con questo commento, oggi Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, ha spiegato perché i tassi a livello europeo siano rimasti invariati all'1%, lo ha fatto da Venezia perché il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea oggi è stato ospitato dalla Banca d'Italia a Venezia. Due volte l'anno infatti la Banca Centrale Europea si riunisce fuori da Francoforte. Restano quindi al minimo storico i tassi di interesse nell'area euro, praticamente la differenza con quanto costa in America è intorno all'1%, in America infatti sono tra lo 0 e lo 0,25%. Avete sentito, ripresa disomogenea in Europa secondo Trichet, aspettative di inflazione basse, tassi appropriati, ripresa graduale ma nulla di cui sconvolgersi. E la pensa così anche il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. I due messaggi sono: continuare a sostenere una ripresa che si annuncia lenta e fragile con l'attuale politica monetaria in bilancio. Il secondo messaggio è ricostruire il sistema finanziario in modo tale che le banche finiscano di completino la riparazione dei loro bilanci e anche completando la ricostruzione del sistema di regole che dovrà rimpiazzare quello che non ha funzionato in passato. Sono i due messaggi che vengono fuori da Pittsburgh a Gothenburg fino a Istanbul. L'altro messaggio che è uscito è che la ricostruzione del sistema bancario e finanziario internazionale è necessario per il rilancio del credito all'economia, in modo tale che anche le banche possano contribuire alla ripresa dell'economia. Mi scuso per la cattiva qualità dell'audio del governatore della Banca d'Italia, ma non dipendeva da noi, c'era un problema tecnico proprio in conferenza stampa a Venezia. Draghi, l'abbiamo detto, ha anche commentato in maniera molto secca sulle ipotesi che lui diventi il prossimo presidente della BCE. C'è già un presidente, questa è la risposta. E il Lodo Alfano, le domande erano dei giornalisti stranieri soprattutto, ha detto non cambia niente, lo scenario politico e lo scenario economico non muta anche di fronte ai recenti eventi politici. Nel frattempo, come si finanziano le imprese? Campari ha lanciato un prestito obbligazionario senza rating da 350 milioni di euro con durata settennale, in cedola annua fissa del 5,37%, lo abbiamo appena scoperto da un'agenzia, rivolta a investitori istituzionali, richieste pari a 2 miliardi e 700 milioni per un'obbligazione da 350 milioni, che vuol dire che sul mercato di liquidità ce n'è tanta, soprattutto quando si offrono obbligazioni di titoli che difficilmente possono fallire. Professor Giampio Bracchi, presidente dell'AIFI, buonasera. Buonasera. Con lei parliamo dell'associazione che riunisce i fondi di private equity. L'ho collegata volutamente a questa notizia sulla Campari perché? Perché abbiamo visto grandissimi gruppi industriali italiani in queste settimane ricorrere alle obbligazioni, non solo le banche, anche Eni, Enel, la Fiat, vado a memoria, forse Telecom adesso lo farà, e adesso anche la Campari, per cui i gruppi per avere soldi non hanno problemi a emettere obbligazioni, soprattutto quando li emettono a investitori istituzionali, non ai privati. Come vanno invece i fondi di private equity e di venture capital, cioè quei fondi che comprano pezzi o la maggioranza di una società per poi ristrutturarla, rimetterla a posto e rivenderla, di solito nell'arco di 5, 6, 7 anni. Che 2009 è stato fino adesso? Allora, il private equity investe in capitale di rischio, quello di cui si parlava, le obbligazioni, è debito che poi dovrà essere restituito, certo, più avanti. Invece il capitale di rischio non si restituisce, non paga servizio del debito e serve quindi quando un'azienda deve acquisire altre aziende, deve fare degli investimenti fissi, deve aprire delle sedi sull'estero e quindi in definitiva non può finanziare lo sviluppo con capitale di debito, deve usare capitale di rischio. Certamente il 2009 è uno dei peggiori fra gli ultimi anni in tutti i mercati finanziari e anche sul mercato del private equity. In Italia il mercato è costituito ogni semestre mediamente da circa 1 miliardo di operazioni di media e piccola dimensione e un altro 1 miliardo di euro di operazioni di grande dimensione, investimenti nel capitale di rischio delle imprese. Poi i fondi che gestiscono private equity fanno anche un pochino di debito e mediamente oggi per ogni milione investito di denaro proprio del fondo fanno anche un debito di 1 milione, 1 a 1 circa, no? Questo è quello che avviene ecco oggi. Professore, io ricordo che anni fa si diceva, beh, insomma, dal private equity arriverà la speranza per le piccole e medie imprese italiane, non solo per le grandi, cioè fondi che decidono di entrare nel capitale di un'impresa, magari appunto sottocapitalizzata, con difficoltà momentanee, le danno una mano a rimetterla a posto, poi la rivendono, ma in questo modo potremmo salvare anche parte del tessuto imprenditoriale. Mi sembra che così non sia andata, ma soprattutto vorrei capire, visto che oggi avete presentato il rapporto sui primi 6 mesi, questi soldi dove sono finiti? Cioè la maggior parte degli investimenti a che cosa è servita? E non so, per esempio buyout o altre formule, prego. Allora, in questo primo semestre si è fatto la metà di quello che si fa normalmente, perché? Perché sono stati assenti in tutto il mercato internazionale le operazioni di acquisizione di grande dimensione, quelle di centinaia di milioni o di miliardi di euro. È un mercato che è stato fermo anche perché è molto difficile poi usare anche un pochino di debito per acquisire su queste mega operazioni. Mentre viceversa c'è stato il normale mercato delle operazioni che si fanno in Italia di media dimensione, quel miliardo, difatti si è fatto realmente 1 miliardo e 70 milioni di investimenti nel semestre, che si fa sul mid market, quindi niente grandi operazioni, solo mid market. Dove sono andate queste cose? Beh, sono andate nei settori tipici, caratteristici delle imprese del Made in Italy, in quelle della meccanica. Questa volta sono andate anche nei servizi finanziari, in quanto ci sono banche che hanno venduto parti degli asset non strategico, ad esempio nella gestione fondi, per riuscire a aumentare i propri requisiti patrimoniali, è un problema ben conosciuto. A differenza degli anni precedenti c'è però una maggiore quantità di investimenti, se ne sono fatti 155 in questo semestre, che è andato non in nuove imprese ma a rifinanziare imprese che già nel portafoglio dei fondi. I nostri fondi hanno 1200 imprese nel loro portafoglio per un valore diciamo, di investimento diretto del fondo di 19 milioni di euro. Molte di queste imprese hanno bisogno di rifinanziamenti perché i mercati non sono certamente brillanti in generale e poi anche perché è difficile oggi uscire dagli investimenti rivendendo, certo, le imprese. La borsa non funziona e il mercato degli acquisti da parte delle imprese industriali è fermo perché le imprese industriali non è che stiano comprando, hanno un problema di sistemare la propria situazione finanziaria e quindi non si stanno vendendo nuove imprese, le imprese già in portafoglio e quindi gli investimenti sono andati anche più che nel passato, il 57% degli investimenti è andata in imprese che stavano già in portafoglio. Ecco, devo dire per concludere che una cosa che invece mi ha fatto piacere è che a fronte di una difficoltà anche dei fondi di private equity e si è ridotto notevolmente il taglio medio di quanto questi fondi mettono dentro l'impresa, si è passati da 16 milioni a 7 milioni di euro, però è aumentato il peso delle aziende con meno di 250 dipendenti, come dire che si è investito di più nelle aziende piccole e medie e meno nelle aziende grandi. Dico ben venga perché sono quelle che hanno spesso più bisogno di liquidità. Grazie al presidente dell'AIFI, che è l'Associazione Italiana del Private Equity, Giampio Bracchi, e da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, devo chiudere, torneremo sui temi dei padri, dei figli e dei figli di domani. Ha sempre i messaggi al 349-238-6666. Vi auguro buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.